Benvenuti, siete sintonizzati sulle 87.9, queste Tracce di Cinema, sono le 15.02. Federico, che bel film oggi, io mi sono fatto certi pianti a rivederlo. Ah, l'hai rivisto? Sì, sì. L'hai rivisto? Io non l'ho fatto. Io invece l'ho rivisto ieri sera, ho pianto tantissimo. Che bello rivederlo, rivedere questa sceneggiatura perfetta, questi attori straordinari. Beh, veramente ho messo una bella foto, sì, benissimo. Beh, un grande anche il regista che lo ha diretto, Alejandro González Iñárritu. È un film del 2003. Stiamo parlando della sua seconda opera, la seconda opera della trilogia della morte, no? Di questi tre film che hanno proprio come tema la morte, ma anche la vita. Il film di cui stiamo parlando è 21 grammi. E il titolo della pellicola si riferisce all'ipotetico peso che si perde, calcolato dal dottor Duncan McDougall, i 21 grammi che chiunque perderebbe esalando l'ultimo respiro, che poi questi 21 grammi sono... No, scientificamente è provato che non è vero. Non è vero? No. Vabbè, però insomma mi piace pensare che sia vero, che ci sia qualcosa. Era un'ipotesi molto romantica di parecchio tempo fa, ma è stata completamente smentita. Decostruita nella sua veridicità. Vabbè, insomma, ma noi ci piace anche pensare che certe cose non vere esistano, anche se poi comunque questo film, poi Fede, guarda, te l'ho proposto io, mi è piaciuto insomma parlarne, cioè, ma non è che la colonna sonora mi convince tanto, Sì, sono d'accordo. E quindi no, lo volevo dire anche adesso così, proprio in diretta, che magari se ci pensi tu a scegliere i film, che secondo me c'è più occhio. Ma come c'è più? No, dai, io diciamo che scelgo gli ospiti musicali, musicisti, compositori. Uno ogni due settimane che non riesci a tirarlo fuori, faccio fatica, come fatica. Vedi. Però ecco, sempre. Guarda, è una colonna sonora strana, insomma c'è un po' di tutto, Dave Matthews, no, vabbè, sì. E poi c'è comunque insomma ci sono la musica di questo grandissimo compositore Gustavo Santaolalla, che mi piace molto, insomma, che è stato candidato anche, ha preso anche due Oscar credo per Babel e per qualche altro film, adesso sì, non mi ricordo il curriculum, però insomma ho scritto tutto quanto, adesso piano piano ci tiriamo fuori. E vabbè, niente, 21 grammi, partiamo e buon ascolto. I know. Should I hold you closer to me, or should I let you go? Anson Funderburg and Rockets con Can We Get Together, un classico rock and roll che proprio non mi interessa. Madonna mia. Beh, vabbè. No, invece non era così male, eh. Non era così male. Non mi è dispiaciuto, è proprio un classico, sì, una musica classicissima che non può non piacere, secondo me. Un pezzo del vecchiotto, di questo chitarrista che ha sperimentato nella sua carriera sonorità che vanno dal blues classico di Chicago a quello texano, paese che gli ha dato anche i natali. Ha fondato questo gruppo di cui ha fatto parte anche un armonicista molto famoso, Sam Myers, con il quale insomma hanno suonato parecchio tempo insieme. Beh, e invece di questo film, che dire, 21 grammi, Alejandro González Iñárritu, un bel film, un film complicato, pluripremiato, molto amato dal pubblico, poco amato dalla critica, almeno quella italiana, quello che ho letto io in giro. Federico, rispetto alle critiche, a quello che è stato scritto quando è uscito nelle sale italiane da parte dei nostri giornalisti, è stato molto severo nei confronti di questo film, ma sarà che si sa, quando una cosa è troppo perfetta le persone sono spaventate, e quindi soprattutto i giornalisti e i critici, che poi sono poi alla fine dei registi spesso mancati e frustrati, allora nelle loro critiche rispecchiano la loro rabbia rispetto a quello che non sono riusciti a fare, quindi... Tu mi parli addirittura di perfezione. Beh, sì, è un film talmente perfetto, perché sai bene che insomma è tutto, gioca tutto sul montaggio questo film, no? Perché tutta una serie, la prima parte sono tutti flashback incastrati uno con l'altro, no? Quindi si parte dalla fine e poi si ritorna verso le storie iniziali dei tre protagonisti. E è un film perfetto proprio per questo, perché non ha una sua cronologia narrativa, ecco, quindi insomma è difficile da raccontare una storia senza che essa sia cronologicamente insomma equilibrata, conseguenziale, e lui è riuscito a farlo, e quindi è riuscito a rendere una cosa molto complicata perfetta, infatti alla fine tutto torna. War con Lowrider 1975, andiamo molto meglio. Oh, vedi, e vedo anche te lo volevo chiedere, meglio, vede? Vedo anche che ne esiste una versione, una cover dei Korn 20 anni dopo, nel 96. Sì, sì, sì, loro non sono un gruppo super famoso, insomma, però hanno fatto diversi dischi, questa è una delle loro hit più celebri. Ritornando al film, a proposito della perfezione di questo film, che riguarda sia il montaggio che il modo in cui Inarritu usa la telecamera, che è una modalità totalmente anticinematografica, nel senso che lui usa la telecamera a mano, non gliene frega niente di quello che succede, di quello che deve fare, lui va al punto, lui ha una scena e la deve girare e non gli importa niente di quelli che sono le tecniche, gli equilibri, le regole, no, lui fa come vuole e gli viene benissimo. Se pensi, no, ci sono un paio di scene che a me mi hanno colpito ieri rivedendolo, c'è una scena senza sonoro e che viene interrotta dal colpo di pistola, bellissimo. E poi la scena stupenda di quando lei sta nell'ospedale, no? C'è dietro la figura della sorella di Naomi Watts che piange, no? Che già sa quello che è successo. Beh, e lui riesce attraverso questa regia proprio cruda e sporca proprio a mettere in evidenza tutta la drammaticità di questo film, che forse perché è così drammatico non è piaciuto ai critici, chissà, però è piaciuto molto al pubblico. Ti sei accanita sui critici? Sì, sì, sono accanita perché ho letto delle cose che proprio mi sono rimaste male. Poi non avevo tempo di leggere anche la critica internazionale, ma mi sono fermata a Ferzetti, a qualcuno di questi. Sei rimasta al provincialismo italiano. Sì, sono rimasta là perché non avevo tempo, però adesso oggi pomeriggio che torno a casa e che non lavoro, mi concentro, voglio andare a vedere che cosa dicono gli altri. Beh, comunque, insomma, Inarritu riesce a dare una logicità a questo film spaventosa, attraverso appunto questo montaggio e questo modo di girare molto fuori dalle regole, un montaggio che se non fosse stato così, secondo me il film, se fosse stato proprio il montaggio classico, canonico, non avrebbe rovinato il film. E poi sottolinea questa cosa del tempo, no? L'idea del tempo, non solo della drammaticità di questi eventi tutti concatenati l'uno legato all'altro, ma anche il concetto del tempo, no? Che è un meccanismo che si può smontare e rimontare e ricostruire a seconda di quello che poi è meglio per un film, ecco, è stato molto bravo. Restiamo lì, 1973, Ann Sexton, You're Losing Me, sempre dalla colonna sonora di 21 grammi. Che dici? Dico, no, niente, niente, volevo raccontare un po' di cose del regista, che c'ha una bella biografia. Ok. È nato a Città del Messico il 15 agosto del 1963 e durante l'adolescenza è scappato di casa, se n'è andato, piccolissimo, è andato a lavorare come mozzo sulle navi e è iniziato a viaggiare, si è spostato, si è fermato in Europa, in Africa, e qui ha scoperto insomma culture diverse dalla sua e ha cominciato a appassionarsi anche alle vite delle persone in un certo senso. Poi è tornato a casa, si è iscritto all'università e è diventato conduttore e direttore artistico di un'emittente radiofonica molto famosa, la VFM, e proprio con la musica si avvicinerà al cinema e scriverà la colonna sonora di 5 film, pensa, nel 1990 lavorando per la Televisa è diventato uno dei più giovani produttori messicani e fonda la Zeta Film, una compagnia di produzione cinematografica e televisiva. Il suo primo mediometraggio di finzione si chiama Detrás del Dinero ed è stato prodotto nel 95 con Miguel Bosé. E questo è una piccola parte della sua biografia e che continuiamo magari dopo andando avanti con la musica. Sì, continuiamo con la musica. Your face and hands. Get out of that bed. Wash your face and hands. Get in that kitchen and rattle those pots and pans. I want my breakfast because I'm a hungry man. Well, I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. Well, you won't do right to save your doggone soul. Shake, rattle, and roll. Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. I'm like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. Oh, I got so many women, I don't know which way to jump. Shake, Rattle and Roll, cioè versione Benicio del Toro. Sì, versione Benicio del Toro, stravolta totalmente dal celebre brano Rhythm and Blues, composto da Jesse Stone e interpretato da Joe Turner and His Blues Kings nell'aprile del 1954. Hanno fatto tantissime cover di questo pezzo, oltre 70, qualcuna, non so, i Beatles, Chuck Berry, Elvis Presley, beh, tantissimi. Invece, riprendendo la biografia del nostro Inarritu, dopo averci regalato questo piccolo lavoro dal titolo The Trust del Dinero, continua a cercare delle storie per quello che pensava dovesse essere il suo cinema, e legge decine di copioni e si imbatte per quasi per caso nello sceneggiatore Guillermo Arriaga, con il quale poi scriverà insieme questo film e anche Amores Perros e Babel. E infatti, dopo 3 anni di lavoro e 36 stesure di una sceneggiatura che avrebbe dovuto riguardare la contraddittoria natura della Città del Messico, riesce a mettere insieme il lavoro, quello che insomma gli dà la notorietà, Amores Perros, che viene infatti premiato dalla Settimana della Critica a Cannes, e che riceve anche una nomination agli Oscar nella categoria di film stranieri. Nel 2002 fa parte della squadra dei registi coinvolti nel progetto 11 settembre 2001, che era un film a episodi, e insieme a lui firmano gli altri episodi anche Sean Penn, Amos Gitai, Ken Loach, Wim Wenders, e sempre con Arriaga scrive 21 grammi, siamo nel 2003, e poi si giunge a Babel, nato ancora dal sodalizio con questo sceneggiatore, e con cui si chiude appunto la trilogia sul tema della morte. Per quanto riguarda questo regista, ho trovato questa bellissima dichiarazione che ha rilasciato in un'intervista, proprio per quanto riguarda la sua visione del cinema e della musica, Fede. Te la leggo. Ho due virtù. Una è il concetto. Vedo con precisione tutto ciò che non deve essere e ciò che deve essere. La seconda è il ritmo. Per me il ritmo è Dio. Senza ritmo non c'è danza, né architettura né musica. Le stelle sono ritmo. L'universo è ritmicamente ordinato. L'arte è palpito di quel ritmo e se ce l'hai è impossibile se non ce l'hai è impossibile creare qualcosa. Quel ritmo io ce l'ho modestamente. And I'd let you go. Hard for you, I've fallen, but you can't break my fall. I'm broken, don't break me. When I hit the ground, got me to the bones. You said always and forever. Now I will leave you, baby. You said always and forever. It's such a long and lonely time. What we had was so beautiful. But I feel heavy, life floating at the bottom of the sea. You said always and forever. Now I believe you. Such a long, lonely time. That you could know the sun angel is stuck inside of me. Why can't I set you free? You said always and forever. No, I will leave you. Such a long, lonely time. Stuck inside of me. Dave Matthews con Sam Devil dalla colonna sonora di 21 grammi di Alejandro González Iñárritu. E la Dave Matthews che ci porta all'ospite di questa puntata, di questa settimana, Mazzino Montinari, che dovrebbe essere in linea. Sì. Eccoci. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio ormai. Sono in mezzo alla strada, ma comunque ci sono. Ok, direttamente dal Noir In Festival, del quale abbiamo sentito, sì, prima il direttore Giorgio Cosetti. Sì, infatti sono in incognito. Sei in incognito. Sono fuggito dai miei doveri. Allora, Mazzino, era un po' più di un anno che non ci sentivamo a Tracce di Cinema, stavolta con questo film di Iñárritu, che io continuo a preferire tra i suoi diversi lavori, insomma è uno di quelli che ho più a cuore. Per certi versi hai ragione, anche perché comunque era il suo secondo film, poi immagino che l'abbiate detto, io ho potuto sentire in parte la puntata perché appunto ero dentro e fuori dall'ufficio. Sì. E, sì, anche se poi il film in realtà nel 2003, quando uscì a Venezia, insomma era in concorso, suscitò, come dire, umori diversi. Io mi ricordo all'epoca che, per esempio, dove scrivevo su Close Up, una rivista online che tuttora è in attività, si faceva un gioco, come dire, cinematografico, per cui si faceva un perché sì e un perché no. E appunto mi ritrovai io a scrivere la recensione del perché sì, e Roberto Pisoni, che adesso, adesso dirige Sky Arte, il perché no. E devo dire che le ragioni del perché no non erano da rigettare completamente, perché è un film che, per chi vuole lasciare allo spettatore del respiro, non ti lascia tanto respiro, insomma è un film che pur avendo un ritmo non velocissimo, però ti impone un andamento avanti, indietro, sempre senza mai una pausa, quindi da questo punto di vista infatti è un film molto incalzante. Sì. Però d'altro canto è anche un film che rispecchia tanti momenti della nostra esistenza, insomma è un film in cui ci possiamo ritrovare, sebbene magari nessuno di noi forse ha a che fare con un trapianto di cuore, con un incidente automobilistico, insomma me lo auguro per gli ascoltatori e per noi, però è un film che appunto in qualche modo ci possiamo rispecchiare, proprio per quel modo di rintracciare la nostra esistenza, la nostra vita, e quindi che non è mai lineare, che ci impone dei salti temporali, e quindi questo modo anche di procedere in Iñárritu, che era già presente nel film precedente, Amores Perros, e che lo ritroveremo poi nei film successivi, almeno fino a Birdman, non è semplicemente un fatto stilistico, non è semplicemente una trovata per stupire lo spettatore, ma in qualche modo è anche un modo di indagare nel nostro stesso modo di rintracciare il senso della nostra vita, che non è mai lineare. Se proviamo a ricordare le cose che abbiamo fatto nel passato, come vedremo, insomma, che troveremo dei salti, dei buchi temporali, delle confusioni che non ci permettono di avere una visione chiara. Questo insomma è un po' quello che mi ricordo di una visione appassionata di 12 anni fa. Sì, sì, sì. Senti, la curiosità rispetto invece agli ultimi due lavori, Birdman e Revenant, voglio sapere un po' la tua su questi, perché per esempio Birdman aveva entusiasmato tutti, ma io l'ho trovato talmente tecnicamente perfetto e ostentatamente perfetto e da risultare piuttosto freddo, non mi ha coinvolto assolutamente. Guarda, vai. Scusami, tu ti riferisci a The Revenant o al film a Birdman? Birdman. Ah, perché qui è passato un motociclista. Ho curato qualsiasi altro sonorità. Per quanto riguarda Birdman, io sono non ho mai trovato interessante il discorso di sposare la causa di un autore tout court. Ci sono i film, quindi certo, possono piacere, possono non piacere, non è che l'autore per forza di cosa debba essere sinonimo di qualità e di perfezione. A me Birdman è piaciuto molto il film, ma questo può interessare poco, e in realtà mi sembra che però è interessante anche in Birdman questo ennesimo tentativo di proporre una ricerca di senso della propria esistenza. Poi, se vogliamo, cambia lo stile, perché ovviamente sono stili. Birdman da un certo punto di vista si stacca da 21 grammi per il montaggio, per la costruzione della storia, anche per la predominanza di un attore su tutti gli altri, sì, cioè Michael Keaton, rispetto invece a 21 grammi, dove c'era una coralità. Credo che da questo punto di vista Birdman sia molto interessante. Poi sì, è vero, c'è un meccanismo talmente perfetto che anche qui ha i suoi Ma io credo che Iñárritu sia un autore, qui smentisco in parte quello che ho appena detto, sia un autore, cioè nel senso che poi ha una traccia comune, no? E quindi è un autore che per forza di cose crea delle divisioni, insomma, al di là di tutto ci fa pensare. Poi c'è chi lo critica e critica i suoi film e ha delle ragioni, perché non posso anche in questo caso, come nel caso di 21 grammi con l'amico Fisoni, anche in questo caso non posso negare che non ci sia questo elemento che tu hai appena sottolineato. 21 grammi da un certo punto di vista è un film più sporco, fortunatamente sì. Anche, sì. Anche la musica è più, visto che avete parlato della colonna sonora, del soundtrack del film, e probabilmente è più sporca di quanto sia Birdman, che invece è una stupenda improvvisazione jazz, e qui invece ci sono contributi un po' diversi, insomma. Adesso tu hai, ho sentito che c'era Dave Matthews prima, sì. E poi ci sono i Kronos Quartet, che con Dave Matthews poco hanno a che fare, insomma, quindi qui continuano a passare moto. Mi dispiace per gli ascoltatori, ma purtroppo era l'unico punto in cui potevo rispondere, quindi purtroppo sono con un rumore automobilistico annesso. Senti, invece The Revenant, non ho avuto poi modo di parlarne con nessuno dopo la proiezione stampa, e di questo invece cosa ne pensi? Che dici? No, ecco, The Revenant è un film che per esempio a me personalmente, sempre che sia interessante saperlo, ma è un film che mi ha lasciato un po' più tiepido, insomma, sì. Nel senso che dal mio punto di vista credo che sia un film più freddo, più calcolato per certi versi, puntato sulla performance fisica proprio di DiCaprio, e al di là adesso dell'Oscar e delle cose, insomma, che sono accadute al film. Però al di là di questo, che poteva succedere, poteva non succedere, non cambiava poi la sostanza. Il film secondo me non entra proprio nel cuore dello spettatore, o quantomeno nel mio. Nonostante poi di partenza potesse avere tutti gli strumenti per il respiro di uno dei classici d'avventura. Sì, però poi cioè, il tema della vendetta, ad esempio, il tema della riscatto, della riscossa, insomma, qui mi sembrano più stilizzati, mi sembrano più forzati, più estetizzati, se vogliamo, legati molto all'indubbia performance di DiCaprio e alle condizioni anche dell'ambiente, ambientali. In un certo senso la redenzione, la vendetta e in qualche modo anche la rinascita e poi la discesa agli inferi in 21 grammi ha una tale complessità che insomma in Revenant mi sembrano meno efficaci. Poi insomma bisognerebbe anche entrare nel dettaglio, ma non credo che abbiamo il tempo di analizzare tutto il film l'ultimo film di Iñárritu. Però ecco, ci tengo a mi interessa molto invece in 21 grammi e nei film precedenti, sì. Sia in Amore Speros ma anche nei film successivi, proprio questa traccia, questa ricerca anche esistenziale, no? che fa Iñárritu, che molte volte è stato appunto un po' come dire, accusato di usare una strategia narrativa, no? E che quindi attraverso questa strategia riusciva in qualche modo a cogliere poi il consenso del pubblico e di una parte di critica. In realtà io credo che invece sia molto funzionale, molto strutturale anche a un tipo di riflessione che poi uno fa sulla vita, sull'uomo e sui suoi dilemmi, insomma, e sul suo rapporto con il tempo, ecco, è questo. Poi è chiaro, è una tecnica di montaggio, infatti insomma, non a caso i film di Iñárritu sono stati, a parte il primo, credo che siano stati montati tutti dalla stessa persona, quindi insomma, c'è anche lì un filo comune, no? Sì. Mentre per esempio voi avete citato, ho captato a un certo punto nella trasmissione, avete citato Arriaga che invece è lo sceneggiatore che invece è si ferma alla, credo, a prima di Beautiful, ora non vorrei a Babel non andare a memoria, ma insomma, come a Babel, Sì, credo che si fermi a Babel, non credo che abbia scritto più dopo Babel lui. Mentre per quanto riguarda il montaggio, perché quella è una fase, è anche interessante questo, insomma, no? C'è questa scrittura che avviene continuamente sia in fase di sceneggiatura ma anche in fase di montaggio, perché questi sono film che hanno una scrittura anche in montaggio molto importante. Non che gli altri non la abbiano, ma qui sì. È ovvio che il montaggio ha una sua rilevanza non indifferente. Bene. Su questo allora, Mazzino, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, ti lasciamo al festival e speriamo a presto. A presto, certamente. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Fede? Dimmi. Ma invece siamo in onda? Siamo in onda. Volevo già partire. Allora, visto che siamo in onda, aggiungo due cose su Dave Matthews che non l'abbiamo detto prima. Allora, nel 1991 si formano a Charlottesville in Virginia, proprio Dave Matthews alla voce e alla chitarra acustica, e dall'inizio della loro carriera non hanno fatto altro che suonare e comporre musica. La loro discografia è sterminata, estesa tra album indipendenti, quelli registrati in studio, i live. Hanno pubblicato più di 25-28 album, e considerando che la band si è formata nel 91 e nel 93 hanno pubblicato il loro primo disco, Remember Two Things, non è poco. Il mio preferito è Crash del 94, te lo ricordi? Crash, no, dovrei vedere i pezzi. Bellissimo, perché... bellissimo. E invece di questa traccia, sì, che fa parte proprio dell'album Some Devil del 2002, Dave Matthews è distaccato dalla sua band. È un album che lui pubblica da solista. E viene registrato in compagnia di Trey Anastasio dei Fish, e il titolo del disco è stato scelto proprio perché in questo disco Dave fa proprio i conti con la sua vita, le sue dipendenze, i suoi demoni, eccetera. E il brano in particolare è questo brano in particolare è un inedito per il disco e per il lavoro di Dave Matthews, perché è una versione chitarra elettrica e voce, e di solito questo non accade mai nei brani di questo artista. Gustavo Santaolalla, Can Emptiness Be Filled. Stavo guardando la processione, mi era affacciata mi era affacciata alla finestra, non mi ricordavo che fosse così breve. Sì, è un minuto, poco più di un minuto. Beh, lui è l'autore di tutta la colonna sonora. Questo è soltanto un piccolo pezzo che abbiamo scelto, e molto bello. E lui è argentino e famosissimo per essere stato premiato due volte con un Oscar, sia per il film Babel che per il film Broken Bad Mountain. Broken Mountain, sì. Okay. E ha una biografia buffa, perché è nato nel 1952 nella città di El Palomar, che si trova nella grande Buenos Aires in Argentina, e fin da bambino sapeva che la sua vocazione era la musica. A 16 anni, nel 1967, dopo insomma aver imparato a suonare vari strumenti musicali da piccolissimo, insomma un bambino prodigio, entra a far parte di una comunità di yoga e si innamora della carismatica leader Dana e con lei forma la band Arcobaleno, che è poi diventata molto famosa per aver insomma fatto della musica in cui si mescolavano ritmi folcloristici indigeni che vennero definiti national rock. Però questa Dana aveva 13 anni più di lui e quindi in quel momento la storia fu messa a dura prova, non solo da questo ma anche dal fatto che c'erano delle regole severissime all'interno della comunità in cui si trovavano, che riguardavano la proibizione di usare e fare uso di droga, alcol, di mangiare carne e di fare sesso anche. Quindi insomma era un rapporto destinato a finire. Sì. E infatti si finì. Finì. Si sciolse anche la band. Senza alcol, senza droga, senza sesso. Tu capisci dove vuoi andare a finire? Da nessuna parte. Nel 1976 forma un'altra band che si chiama Soluna. Ha fatto un unico album in cui hanno partecipato grandi ospiti come Charlie Garcia e Marcio Beber. E poi è stato produttore musicale di tantissimi artisti argentini famosi: Molotov, Café Tacuba, Julieta Venegas, le carismatiche Juanes. E poi inizia negli anni 90, inizia a pensare alle colonne sonore e inizia a pensarci subito bene, perché compone le musiche giusto per Amores Perros, che tra l'altro sono bellissime, e poco dopo quelle di 21 grammi, riceve un BAFTA per Ideari della motocicletta, un Oscar per Babè e per la colonna sonora di Brokeback Mountain di Ang Lee, e batte senza proprio a mani basse Thomas Newman, Alexander Desplat e molti altri grandi insomma autori di colonne sonore. Beh, molto in gamba. Ha prodotto anche Calle 13. Sì, no, questo Claudia, ciao, saluto Claudia. Quartet, when our wings are cut, can we still fly? Questa è la domanda, cara Ottavia. Potremmo mai volare? Kronos Quartet, quartetto d'archi fondato nel 1973 dal violinista David Harrington, dal 1978 stabili a San Francisco, dove hanno fatto moltissimi concerti, eseguono musica del Novecento da Bartok a Webern, contemporanea e minimalista da John Cage a Steve Reich, diverse composizioni scritte appositamente da autori come Eric Gorick, Philip Glass e molti altri, ripropongono riletture jazz di Thelonious Monk e Billy Evans, rock di Jimi Hendrix, e insomma sono talmente forti, caro Fede, che hanno realizzato anche la colonna sonora di Requiem for a Dream e The Fountain, l'albero della vita. Requiem for a Dream, che io non sono mai riuscito a vedere. Bello, bel film. E poi avevamo pure pensato alla colonna sonora, però poi era tutta strumentale, c'era presa male, ti ricordi? Sì, ma io non sono contro lo strumentale. Allora, proviamo a provare. Tanto ne abbiamo fatte di... Tanto peggio di questa puntata non può succedere niente. Ma perché sempre così? Sempre così. Senti, siamo all'ultimo brano, perché poi io pensavo chiudiamo, facciamo anche una corrispondenza da Piazza Venezia, e quindi siamo ai saluti, direi, prima di lanciare l'ultimo brano, chiudiamo con i nostri saluti. Sì, ricordiamo a tutti che sono state pubblicate le nuove Scarceranda, che sono qua alla radio e le potete venire a prendere, costano 12 euro, sono bellissime, quest'anno hanno una grafica agenda più quaderno, hanno una grafica super colorata, proprio bella, e sono qua pronte per essere prese da voi. Poi se volete potete anche fare un contributo a questa radio che sta passando un momento difficile e ha bisogno fortemente di essere sostenuta da tutti gli ascoltatori per continuare a trasmettere libera come ha fatto dal 1977. Potete contribuire con una sottoscrizione al conto corrente postale 6180 04001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185 Roma, oppure potete fare una sottoscrizione attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, dove nella pagina troverete l'icona Sostieni e tutte quante le modalità elettroniche per sostenere questa radio. Se volete scriverci tracce di cinema @ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre in diretta sugli 87.9 dalle 15 alle 16, e anche in streaming sempre dal sito internet della radio. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, e in particolare a tutti coloro e tutte coloro sono private della loro libertà. Ci lasciamo con Ozzo Matli, Cat Chemist Suite. Abbiamo qualcosa da dire sul... No, ci salutiamo così. Jumper, packing my oral cannon, busting from Okinawa, Japan to Laurel Canyon. Swallow flows, we turning like plush tires. Mellow and froze, lyrics be burning like brush fires. Spreading vocal literacy, using discrepancy. Lyric weaponry lessens your chances of testing me. Stop it, please, MCs, I block atrocities. True philosophies from the lips of Black Socrates. The pocket pencil-er in your peninsula. Killing Dracula, MCs are ripped from my vanilla. Rocking back in the ill scene, we occupy. No lullaby, got you high when I rock the fly verse. For my people, let me be slow. But evil with stimulation, it's a recruit system. Cut chemists from the beta, get to work with the beta. We murder you with the data, cause I'm an aristocrat, and you'll rip the fat. And I'm blessed with the gift to rap this life back. I'm an aristocrat, and you'll rip the fat. And I'm blessed with the gift to rap this life back. Antagonistic, drastic, coming from a place where these cops get they ass kicked. The last trick unified was the cornerstone. A lyric is due to the dome is how we wanna clone, born alone. the strength of God, make my mission higher. They thought the liar dead, strung up with fishing wire. The mystifier packing vocal artillery, making lovely word connections like jugglery. The community, I make it block to the one rhyme. Electrifying like some nocturnal sunshine. The planetary pioneer in this mixer. Charlie Tuna speaking scriptures, in pictures. Even systems adapters, we take it back like chiropractors. Actors on wax, make it worse for. Then it sees you work your wildest when they search for me. The aristocrat, get no diplomat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. With the gift of rap, it's like that. You lost a vital part of your body in competition with the T to the U and the breadwinner. Lyrical lead spinner, the shit in you dead center. I, the aristocrat, get the whip of fat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. I, the aristocrat, get the whip of fat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. It's like that, yo. It's like that, everybody out there, yo. It's like that, my name is Tuna Fish, yo. It's like that, and we are also poppy. It's like that, yo. Ah, the aristocrat, get the gift of that. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that.